ho 28 anni, quindi sono in età di apprendistato. La problematica che volevo esporvi è che molto spesso io, guardi, sono appena rientrato da un giro di agenzie interinali di distribuzione di curricula e ho sentito la vostra trasmissione e volevo, diciamo, esporre quello che io ho visto e che è per me la realtà dei fatti, cioè che le aziende che vengono finanziate dallo Stato con molti soldi per prendere persone e renderle apprendiste, in realtà chiedono intanto esperienza pregressa, che a un apprendista come si può chiedere esperienza pregressa in un campo in cui si dovrebbe formarlo? E secondo, quando nel caso in cui l'apprendista venga assunto, anche a breve, mai viene comunque, o comunque in rarissimi casi, viene comunque prolungato il contratto. Io chiedevo, per quanto riguardava il discorso della richiesta di esperienza pregressa, se fosse legale questa cosa, se fosse legale, se fosse... Se fosse anche una prassi diffusa, Giordano, perché questo svilisce completamente l'istituto dell'apprendistato, lo annulla direi completamente. Tra l'altro, Giordano, lei in che settore lavora? In che ambito sta chiedendo di essere impiegato? Io ho una laurea in scienze per l'ambiente e il territorio, una laurea specialistica, quindi il settore ambientale, che dovrebbe essere in questo periodo comunque tra i più gettonati. Eh sì, c'è una forza politica che ne sta facendo un grande cavallo di battaglia, peraltro, su questi temi. Io non ho mai lavorato nel mio settore, io adesso è un anno e mezzo, quasi due, che sono laureato alla specialistica, ma in questi due anni quasi non ho lavorato mai nel mio settore, perché comunque intanto va bene, si prediligono ingegneri di qualsiasi tipo in qualsiasi settore per le agenzie, ma quelle sono scelte comunque dell'agenzia. E ogni volta che viene proposto un apprendistato si chiede esperienza pregressa, quindi io che non ho esperienza pregressa ma ho una laurea e ho fatto altri lavori, vengo sempre scartato.